canso di equivoci quando sentiamo questi nomi, Neftali, Zabulon, non pensiamo a nient'altro, erano i figli di Giacobbe. Poi in mezzo a tutta la storia delle guerre tra varie tribù, hanno anche loro occupato un pezzo di terreno e cercavano di difenderlo dagli assalti. Vabbè, è per dire che quando sentiamo certi nomi noi li diamo per scontati, ma dietro ci sta tutta una storia. Vorrei dire tre cose. La prima è per inquadrare un po', partendo dal Vangelo. Avendo saputo che Giovanni Battista era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea. Ora, si è recato là non per fuggire o per non fare la fine di Giovanni Battista. È molto più profonda la cosa. L'evangelista porta una serie di elementi che ci fanno capire che Gesù sceglie volontariamente questa situazione, ma per dare un primo grande messaggio. È intenzione di Dio ripartire dai margini, dai confini, dove persone, lingue, religioni, culture si confondono quasi come in una nuova colorata Babele. Infatti la Galilea non è neanche considerata nella carta geografica, non è neanche considerata dall'apparato bellico, militare, religioso, culturale di Israele. È un territorio dove la contaminazione tra cultura e religione si fa realtà, al punto che per ogni pio israelita, quelli fedeli, quelli che dicono la legge dice, la Galilea è ritenuta terra di eretici, lontana da Gerusalemme, lontana dal bellissimo Tempio. Cuore religioso, politico, religioso e trafficante, il Tempio, lontano da ogni periferia, una terra di periferia è la terra degli esclusi, Galilea delle genti è chiamata. Appunto, che con questo gergo, genti, si dice proprio quelli là che stanno fuori. Tradotto, il messaggio è grande apertura, cioè non più esclusione, inclusione, escludere o rendere partecipi. Faccio una parentesi. Se lo applichiamo alla nostra realtà sociale, politica, religiosa, ecclesiale, attuale, che per espressione ha bisogno di escludere, di respingere ai margini, per la paura di perdere la propria identità. E qualche esame lo devono pur fare le comunità dei credenti. È certo che l'avvenire della Chiesa sta nella sua capacità di essere aperta, inclusiva, materna, tenera, affettiva anche. Però pensiamo a situazioni non solo dei migranti, ma anche di situazioni di persone con problematiche delicate, divorziati, separati, omosessuali, religiosi che danno le dimissioni dalla loro storia, dal loro stato religioso. Pensate a quella suorina incinta, che casino si è creato attorno. La liberazione operata da Gesù inizia proprio dalla Galilea, proprio da là, dai confini estremi. Una seconda cosa allora viene spontanea. Andiamo a prendere il nocciolo del messaggio di Gesù, che nel brano, come dire, incide le due parole generatrici di questo suo messaggio: conversione e regno di Dio. È bellissimo, eh? Convertire, convertirsi, pensare in altro modo. C'è di più. L'uomo non è mai nato del tutto. Deve affrontare la fatica di generarsi e rigenerarsi. Siamo nati per rinascere. Gli uomini e le donne non finiscono mai di essere piante, non finiscono mai di essere fiori. Chi ha speranza, sia pure nel dubbio, nella fatica, qualche volta perfino nella depressione, ha fame di portare a compimento ciò che ha dentro di sé, e magari l'ha dentro di sé in forma di germe. Vivere rinascendo, cioè venire alla luce. Questo è convertirsi. Il regno di Dio è vicino a voi, dice Gesù. Il regno è qualcosa che è di Dio, sì, ma è anche degli uomini. Regno che viene con il fiorire della vita in tutte le sue forme. Allora il regno di Dio è il mondo come Dio lo desidera, libero appunto da inganni, e ne abbiamo di documentazioni, di violenze, e che notizie abbiamo. Più bello e più intenso di tutte le lacrime, così, quelle che magari nella, tra virgolette, nella notte noi ci portiamo appresso. Questo è il regno che Dio sogna per noi e che in Gesù, tramite Gesù, si è fatto vicino. quello che Dio pensa noi lo possiamo cogliere, perché abbiamo Gesù che è la parola di Dio. Questo è il regno che Gesù è venuto a inaugurare, dove magari c'è lo spazio e l'imprevedibilità dell'amore. È per questo che Gesù è la buona notizia. Una terza sottolineatura velocissima per chiudere. Gesù è un uomo di frontiera. Non è uno tranquillo. Come la frontiera non è il luogo di tranquillità. Gesù è un inquietatore, è uno che inquieta, che vuol liberarci dalla stregoneria degli acquieti e dell'indifferenza, delle false paci, dell'accontentarsi del minimo, di quei due o tre comandamenti più eclatanti, liberarci dal vivere senza mistero. È possibile vivere senza mistero? No, non saremmo neanche intelligenti se dovessimo negarlo. Sentirci guardati da Dio, da Gesù Cristo, nel Vangelo è Gesù che passa, guarda e quattro uomini si rendono, come dire, un po' frastornati perché si sentono guardati. Anzi, iniziano a guardare se stessi. Faccio notare, per quel tanto di psicologia masticata, che c'è come una legge che dice così: la persona comincia a esistere sempre di più completamente come persona quando inizia a guardarsi con gli occhi di qualcun altro. Saranno stati gli occhi della mamma, gli occhi degli amici, gli occhi dei compagni di lavoro, degli abitanti vicini e così via. Quando scopre che le sue azioni, quelle dell'uomo, hanno effetti sugli altri e sul futuro, quando legge negli occhi degli altri, scopre se stesso. Chiudo. Veniamo alla luce sconosciuti a noi stessi e ci conosciamo nel gioco degli sguardi degli altri. Per questo Gesù dice a loro, ai quattro: seguitemi e vi farò pescatori di uomini. Gesù chiama quei pescatori ed essi scoprono che dentro di loro non ci sono solo le rotte del lago, le mappe del cielo c'è. Nessuno può dire: io sono da meno dei quattro pescatori. Ho una cultura, ho una salute, o c'ho meno cultura, o c'ho meno salute, meno cuore. Nel giorno delle tenebre, quando siamo un po' depressi, diciamo, o siamo pessimisti, Nel giorno delle tenebre sono sfuggiti tutti gli amici che hanno seguito Gesù. Noi siamo qui convocati dalla parola che inquieta, ma nel medesimo tempo affascina, perché qualcuno ci dice: seguitemi, provate a darmi fiducia. Ho esagerato il tempo questa mattina.